Parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare, di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa. E allora, ciao, bentrovati a tutti gli amici ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Siete sempre qui nello spazio radio della stampa rassegnata, dove sapete che parliamo dall'inizio del 2018, principalmente delle vicende di cronaca locale legate alle opposizioni popolari alla costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Peretola e la vicenda dell'inceneritore di Case Passerini e più in generale delle lotte e delle battaglie sui nostri territori contro e sul ciclo dei rifiuti. Nella stampa rassegnata che ci ascoltate e la potete trovare o in streaming nella diretta del lunedì alle 15.30 oppure il mercoledì alle mezzanotte sonata, che è un orario gustoso per chi se lo può permettere, oppure il giovedì mattina alle 8.30. Questi sono i nuovi orari dei passaggi in radio, che chiaramente valgono anche per chi ci ascolta beatamente sulle frequenze medie liberate di Radio Wombat alla modulazione del 1359, 1359, anno in cui sarà successo sicuramente qualcosa di interessante, e presto ci informeremo per divertirci anche su questo. Sono i nuovi orari, i nuovi giorni in cui ci ascoltate, che hanno sostituito i precedenti, anche perché siamo felici di stringere la cinghia dei nostri spazi orari e dei passaggi settimanali, visto che la radio cresce un po' e si ospitano anche nuove trasmissioni. La puntata che andiamo a fare questa settimana, che chiaramente come sempre si muove con una settimana di ritardo rispetto all'accaduto, giusto il tempo per leggere gli articoli, fare alcune riflessioni, la vorremmo cominciare con un ospite che abbiamo già avuto un'altra volta. In qualche modo è una sorta di corteggiamento quello che stiamo facendo ospitandolo qui all'interno della stampa rassegnata. È Dieghito, del collettivo Antonin Artaud di Pisa, però insomma fiorentino per nascita, pisano per passione. Si fa per così, per fare una battuta, che oggi interverrà nei nostri spazi per appunto dare una voce rispetto ad una questione che è una rogna processuale, ma più in generale, a partire da questo caso specifico, per farci un po' capire quella che è l'attività del collettivo Antonin Artaud, di quella che è l'attività dei telefoni viola, di quello che è l'attività dei collettivi di sostegno alle vittime della pratica psichiatrica e appunto più in generale delle tematiche potremmo riassumerle riferite alla repressione, al controllo sociale, alla psichiatrizzazione che da anni seguono. Quindi tenteremo appunto parlando di questo processo, che è il modo per dare voce a una cosa che molto probabilmente non ne avrà in nessun altro modo, un modo per incuriosire gli ascoltatori anche rispetto a queste tematiche che da anni ci attraversano come movimenti di emancipazione umana sociale e che giustamente, insomma, meritano di essere ascoltate anche da questi microfoni. Quindi gli diamo subito la parola per raccontarci, appunto, a partire da questa rogna. Diego, ma che succede? Ti portano a processo un'altra volta, come se non fossero bastati tutti quelli di questi anni anche per altre vicende. Niente, è successo che due compagni del collettivo antipsichiatrico Antonio Artaud il 23 maggio avranno un processo per accusati di aver per violenza privata, accusati di aver minacciato una persona. Questa persona si era rivolta allo sportello di ascolto che ogni due martedì al mese il collettivo fa a Pisa. Tramite telefono si era messo in contatto con noi ed era venuto allo sportello e aveva chiesto un aiuto per uscire dalla psichiatria. Quando lei si è rivolta al medico, al suo medico, al suo psichiatra, nella città di provenienza, questo in qualche modo l'ha convinta che noi la stavamo truffando, quindi si è sentita ingannata e ci ha denunciato, per minaccia. Per minacce, come violenza privata. Noi come collettivo da anni facciamo un telefono viola, cioè un telefono d'ascolto contro gli abusi della psichiatria, una linea, una linea telefonica che difende le persone dagli abusi e facciamo appunto anche uno sportello, che è un'azione pratica di informazione, di controinformazione sui TSO, cioè sui trattamenti sanitari obbligatori, sui TSV. Trattamenti sanitari volontari, sui farmaci, i loro effetti collaterali e anche un'azione legale. E quindi noi continueremo a portare avanti le nostre pratiche e non ci fermiamo qua. Tutte le attività del collettivo andranno avanti. E niente, ci è capitato questa cosa, non ci stiamo scoraggiando, stiamo continuando a portare avanti appunto l'azione del collettivo, che è un'azione di denuncia. Sulle pratiche della psichiatria, sulle pratiche che la psichiatria fa sul nostro territorio. Chiediamo solidarietà ai compagni che ci conoscano, alle realtà che ci hanno ospitato in questi anni, alle realtà con cui abbiamo collaborato, e ai telefoni viola, a chiunque ci conosce, ha fatto le cose con noi, di sostenerci in questa nostra bega, questa rogna che ci è capitata. Quindi, scusa, ti rubo un attimo diciamo, il microfono domestico che stiamo utilizzando. E ovviamente da parte di tutti e tutte i collaboratori, gli amici, le amiche, gli ascoltatori e quant'altro di Radio Wombat c'è ovviamente in questo subito un attestato di solidarietà. Ma magari è curioso, sarebbe interessante proprio così, sempre per lanciarti la palla rispetto a una possibile trasmissione futura che affronta in modo più organico e più diffuso tutte queste tematiche, dare delle pillole all'interno del pillolo, che è il nome col quale definiamo le nostre trasmissioni della stampa rassegnata, un po' un abbozzo così, qualche pennellata su il funzionamento, no, del TSO, trattamenti sanitari obbligatori, TSV, trattamenti sanitari volontari, e più che altro rispetto a questo, voi fate uno sportello, no? Ma diciamo, se una persona sta male, la narrazione della psichiatria è rivolgetevi allo psichiatra, lo psichiatra vi prende in cura, vi cura e la questione è finita. Quindi, per certi aspetti, può sembrare paradossale che esistano delle linee telefoniche di confronto, di soccorso, con le quali qualcuno come voi si rivolge e dice: guarda, se siete in difficoltà, chiamate, perché dice, come mai uno che è in cura si dovrebbe trovare in difficoltà? Cioè, qual è la condizione della persona che finisce nelle maglie della psichiatria che voi negli anni avete trovato? Come la potresti descrivere? E quindi qual è il ruolo che svolge una linea telefonica e una sorta di pronto soccorso, se mi passi il termine, rispetto a queste vicende? Sì, i TSO sono appunto i trattamenti sanitari obbligatori, che è un provvedimento che fa il sindaco su richiesta di due medici, uno deve essere uno psichiatra iscritto al servizio sanitario pubblico, e questo provvedimento prevede l'obbligatorietà di stare in un SPDC, cioè un reparto ospedaliero, servizio psichiatrico di diagnosi e cura. reparto ospedaliero per 7 giorni e prende tutta una serie di trattamenti. Ci sono tre condizioni per cui può essere fatto un TSO, che sono il rifiuto delle cure, lo stato di necessità, cioè, e il fatto che non può essere fatto ex ospedaliero. E noi facciamo una linea d'ascolto e una tutela alle persone che sono vittime della psichiatria, perché in psichiatria purtroppo accadono vari abusi quotidianamente. Cioè, per esempio, la maggior parte delle richieste che ci fanno a un telefono è voglio fare uno scalaggio, non ce la faccio più a prendere i farmaci che mi danno, li voglio scalare. Perché? Perché molto spesso questi farmaci vengono usati come una minaccia, cioè non li prendi, ti faccio un TSO, non vieni a farti la puntura mensile, ti faccio fare un TSO. E questi farmaci sono invasivi, sono spesso cocktail e che alle persone fanno stare male, quindi ci viene chiesto di levarli e di non dover più essere obbligati a prenderli. Noi, tramite questa cosa, perché se te accetti le cure, casca un TSO, no? Perché se c'è una delle condizioni è il rifiuto delle cure, quindi noi cerchiamo di Fatela accettare. consigliare, di richiedere, di dire che accetta, o di trovare uno psichiatra privato, o di trovare un dottore che fa una certificazione che ti prende in carico, per cui ti puoi levarti dal rischio del TSO. C'è urgenza e c'è necessità di avere più sportelli e più telefoni sul territorio. Noi ci chiama tutta Italia, ci vengono persone a trovarci da tutta Italia, ci telefonano perché questi ricatti che fa la psichiatria, o comunque minacce di appunto un'obbligatorietà alle cure, sono quotidiane. Il TSO non è estrema ratio, come avrebbe veduto magari Basaglia, che ha fatto una lotta contro i manicomi, per la chiusura dei manicomi, o come chiedevano le istanze sociali che c'erano in quegli anni, 40 anni fa per l'appunto, ma non è, appunto, non è estrema ratio, ma è una pratica di repressione e di controllo, cioè si fanno quotidianamente, c'è tipo 10.000 TSO all'anno, ci sono 320 reparti psichiatrici sul territorio, che utilizzano delle pratiche che prima erano manicomiali, però purtroppo ce ne siamo ritrovate, c'è la contenzione meccanica, che non La è, smicia di forza. sì, che non è un intervento terapeutico a tutti gli effetti, non è considerato da nessuno intervento terapeutico, cioè, Ma ma contenitore. è contenzione meccanica, cioè sono persone legate al letto, con le fasce di contenzione, magari anche ai quattro arti, a tutti e quattro gli arti. Questo nell'80% degli SPDC si lega ancora, ci sono solamente 20 su 320 SPDC dove non si lega, che faranno una pratica non restraint. Gli altri utilizzano la contenzione meccanica, c'è l'obbligo di cura, c'è le minacce, come abbiamo visto, c'è ancora l'elettroshock in questo paese, nonostante che molte persone pensano che venga, Terapia che adesso si elettroconvulsiva. chiama terapia elettroconvulsiva, ma è la stessa identica cosa. Qui c'è la necessità di informare. Molto spesso le persone non sanno in che regime ospedaliero si trovano, cioè se sono, perché vengono, dicevo, vieni in reparto, allora molto spesso vengono convinte e vanno volontarie, che non hanno un TSO, ma non sanno che se sono volontarie posso firmare e venire via. Però molto spesso quando chiedi di uscire perché sei volontario, ti fanno, ah, allora ti facciamo fare un TSO, qui c'è la minaccia, no? C'è il ricatto, ah, se vai via ti si fa rinchiudere. C'è i depot, che sono le punture, cioè punture a lento rilascio, che con lo psicofarmaco a dosi eccessive, che durano per 15 giorni, quindi noi chiediamo, diciamo sempre, per esempio, di chiedere di passare alla terapia orale, perché se stai male con la terapia orale puoi sempre togliere, scalare. Invece con la puntura, se stai male, male te lo tieni. C'è un abuso, per esempio, enorme degli amministratori di sostegno. In questi anni tantissime persone che sono in carica ai servizi hanno anche un amministratore di sostegno, che li amministra i beni o la pensione, c'è anche un ricatto economico. Ti tengono legato al servizio con la pensione, sappiamo che c'è crisi sociale, quindi crisi anche economica, e molte persone sono legate a servizi perché richiedono una pensione. Noi riceviamo continuamente telefonate, molto spesso anche di persone che sono in comunità, ma senza aver firmato niente, per esempio, che li tengono lì e Sono già ci chiedono, ma costretti. posso, non sanno dove metti, ma posso uscire, posso venire via? Certo, uno se non ha firmato niente, noi infatti Un consigliamo detenuto per sempre, forza. sei come se fosse un sequestro di persona, quindi noi consigliamo sempre di leggere tutti i provvedimenti, di richiedere il provvedimento, perché molto spesso prima arriva l'ambulanza. Ti portano al reparto e poi scatta il provvedimento del SEO. Invece dovrebbe essere l'incontrario. Prima c'è la visita, poi la firma del sindaco. Ah, mi sono scordato prima. Dopo la firma del sindaco c'è 48 ore di tempo. Il giudice tutelare deve convalidare il provvedimento del sindaco. Questa cosa il giudice convalida a carta bianca. Anche i sindaci, noi siamo stati negli anni abbiamo chiesto spiegazioni, no? E i sindaci firmano, no? L'autorità psichiatrica passa un po' oltre, no? A quello che è il sindaco o il giudice, Sì, ha deciso lo poi psichiatra, si fa. bisognerebbe vedere le convinzioni dei singoli sindaci. Insomma, penso che Nardella firmerebbe qualunque cosa Nardella per li firma, chiunque. sì. Nardella li firma. Senti, Diego, ma rispetto al processo, quindi che vi aspettate? Tenendo conto del Noi. fatto che spesso siete voi appunto l'accusa nei confronti delle istituzioni psichiatriche, intese nella loro componente coercitiva, no? Del loro elemento di cura, che però il confine è molto labile con la violenza e la coercizione. Vi aspettate una condanna politica, la possibilità di una condanna politica, oppure, essendo tutto sommato una situazione, mi è sembrata un po' quasi un po' ridicola, perché ora accusarvi di minacce per aver convinto la persona a chiamarvi a fare quello che voi le dicevate di fare, boh, mi sembra un po'. Cioè, che vi aspettate per il processo? Noi purtroppo non siamo riusciti più a parlare in modo sereno con questa persona che non ha voluto sentire, non ha voluto più parlarci, più ascoltarci e ha appunto ci ha subito denunciato. Fra l'altro, noi cioè, l'abbiamo vista mezz'ora. Questa persona è venuta mezz'ora, un martedì allo sportello. Noi ci aspettiamo che il PM cercherà di mettere in discussione le pratiche del collettivo. Le prove che facciamo, cioè non ci viene in mente altro, cioè prove non ce ne sono. Noi siamo sempre stati, chi ha fatto le cose con noi, insomma lo sa, trasparenti, cerchiamo di essere il più chiari possibile nelle cose che possiamo fare e quelle che non possiamo fare. Ci aspettiamo che il PM provi a fare un processo politico. Vedremo poi come si evolverà quelle questioni. Ora il 23 maggio c'è la prima udienza, dove ci saranno i testimoni dell'accusa e ci saremo noi come imputati. Noi continuiamo alla luce del sole a portare avanti le nostre pratiche. Ricordo che noi siamo un collettivo totalmente autogestito, autofinanziato. Cioè, questa cosa dello sportello e del telefono è per noi una forma di lotta, di militanza. Cioè, tutto lavoro volontario, se di lavoro vogliamo parlare. Quindi sono le nostre energie, il nostro impegno che continuerà, che sicuramente non ci fermeremo. Le iniziative del collettivo vanno avanti, le attenzioni del collettivo stanno andando avanti. Noi adesso stiamo seguendo la questione carcere, no? Praticamente è venuto fuori carcere e psichiatria, c'è questa connivenza tra le due istituzioni totali. Praticamente è venuto fuori che il 4% dei detenuti soffre di malattia mentale, disagio psichico. Il 10% sarebbe depresso e il DAP vuole istituire un'equipe di psicologi che all'ingresso del detenuto o al trasferimento in nuovo carcere del detenuto psicanalizza il detenuto per poi indirizzarlo verso le conseguenti farmaci, la diagnosi, la patologia, il farmaco. Roba. Psicanalisti. Psicanalisti, per noi il problema sarà che quando ci metteranno mani gli psichiatri, da parla di equip di psicologi. Per ora, però molto, molto spesso sappiamo che magari lo psicologo poi passa la palla allo psichiatra. Sappiamo benissimo che in carcere l'80% dei detenuti si fa di psicofarmaci, no? Non si trova un antidolorifico per il mal di mancia, però di gocce per dormire no, se ne trovano. Quindi c'è questa connivenza fra psichiatria e carcere, questa cosa qui del DAP è allucinante, cioè qui si apre un nuovo mercato, fondamentalmente. È chiaro, poi il discorso è, non si va a mettere in discussione. Posizione di monopolio, tra l'altro, perché Esatto. lì che entra in competizione, cioè l'alternativa qual è? Non c'è, per cui o questo o questo. No, e poi siamo sempre alle solite, è la persona che è considerata malata, non si va a mettere in discussione l'ambiente, cioè le condizioni di vita. È chiaro Che che generano la in patologia. carcere, è chiaro che in carcere uno sta bene, che è a disagio, che ha sofferenza, però sono le condizioni di vita, sono le condizioni ambientali, so come li trattano, cioè, non è che, è chiaro che uno sta male, cioè, c'è aumento di depressione, cioè, Se stesse come bene in si... carcere sarebbe un problema. Capito? E quindi, però, la psichiatria fa un po' così, no? Sono le persone che sono malate, non si va a vedere l'ambiente o la società, no? Penso ai migranti. C'è un aumento di psichiatrizzazione dei migranti, no? Ci sono TSO a migranti che sono nei CARA o nei CIE, magari si ribellano, soffrono, sono a disagio, hanno dei comportamenti eccessivi e vengono psichiatrizzati. Ma queste persone, cioè, non è che sono malate, queste persone scappano da delle guerre, da bombardamenti, dalla fame, hanno un disagio che si portano dietro e Loro poi glielo chiudono in gabbia e quindi giustamente. viene fuori. No? Quindi non è anche lì. Ci sono delle cause, invece la psichiatria va a vedere i sintomi, no? Cioè la persona e non le cause di questa persona. Questo, l'attenzione, quindi cioè la nostra battaglia va avanti, no? Le iniziative proseguono, faremo presentazione dell'Opuscolo di Marco Rossi, Correnti di guerra, venerdì 11 maggio all'Ateneo alle 9. E continuiamo ad andare a giro a presentare il libro Elettroshock, quindi noi non ci fermiamo. E ci potresti dare per i nostri ascoltatori e ascoltatrici l'indirizzo web dove trovare il collettivo? Il collettivo lo trovate a artopisa.noblogs.org, che Artaud. è scritto Artaud, sì, giustamente scritto Artaud, e l'indirizzo mail è antipsichiatriapisa@inventati.org. Beh, io penso che appunto il nostro corteggiamento si dovrebbe chiudere in breve perché di cose da dire ce ne sono tante e sempre dette con simpatia e competenza da Diego, quindi lanciamo questa sorta di referendum interno a Radio Wombat, alza la mano, preme il bottone o ci chiama o ci manda una mail, chi vorrebbe una trasmissione con cadenza in base alle loro disponibilità e forze da parte del collettivo antipsichiatrico, al quale si rinnovano chiaramente gli auguri e i pugni chiusi per questo processo che vanno ad affrontare, augurandoci, e il nostro impegno va in quella direzione, che non sia appunto un processo politico rispetto al ruolo che l'antipsichiatria come movimento carsico, a volte poco o quasi invisibile, anche all'interno dell'auto-organizzazione sociale di questo paese, però comunque permane. C'è stata e continua ad esserci e ci sarà. Poi andiamo avanti con le nostre notizie. Un saluto a Diego. Ciao. Ciao a tutti, grazie, un abbraccio. Allora, prima un pezzettino musicale prima di fare il punto sulle vicende dell'inceneritore dell'aeroporto, da Alberto Camerini, La sballata delle Amazzoni. Quando fu per tutti chiaro che il prezzo troppo amaro era la totale distruzione, la completa alienazione, e che la giungla tropicale, paradiso naturale, stava ora diventando una metropoli infernale. Ma gli uccelli della giungla, tutti colorati, belli, stanchi di subire, decisero di agire. E con i pesci e gli animali dei fiumi un tempo chiari, cercarono alleati come loro violentati. Con le Amazzoni del fiume, alleate con la luna, l'obiettivo era comune, la via di uscita solo una, perché avevano deciso di cercare il paradiso e perché avevano rifiutato il massacro organizzato. Sì, nasconde bene nella giungla, fra le belve, la violenza, ma fiorisce con pazienza il fiore dolce della resistenza. Padroni della giungla, un terrorista, un generale, un leone, un golpista, un finanziere, un industriale, con agenti americani pagati profumatamente, con l'oro nero, gli aeroplani e con strani finanziamenti, organizzarono un sequestro, un vero colpo destro. E la tribù così colpita, quando un amazzone fu rapita, grande fu la disperazione fra tutti gli emarginati, perché volevano milioni per arricchirsi col riscatto. Ma gli uccelli della giungla, i pesci non si disperarono e tanto la cercarono finché al fine la trovarono. A Parigi in discoteca l'avevano portata e qui narcotizzata, strettamente sorvegliata. Si nasconde bene nella giungla, fra le belve la violenza, cresce bene con pazienza il fiore chiaro della resistenza. Ma gli uccelli con le ali hanno anche dei vantaggi che sono eccezionali in questi salvataggi. Incantarono i guardiani con i loro suoni strani, i pesci la salvarono, sulle acque la portarono e l'inganno scellerato fu allora smascherato e a tutti fu ben chiaro chi lo aveva organizzato. E per tutti fu ben chiaro, anche se era un poco amaro, che i padroni sono forti e che non sono ancora morti. E la lotta andò avanti e non è ancora terminata, e la giungla ancora inquinata, i problemi sempre tanti. E chi non lo sapeva, adesso chi credeva, chi usa il rapimento come furto e arricchimento. Si nasconde bene nella giungla, fra le belve la violenza, cresce bene con pazienza il fiore dolce della resistenza. Ed eccoci allora tornati in voce dopo questo vecchio Alberto Camerini. E come avevo promesso, un po' il punto della situazione per quanto riguarda sia l'inceneritore che l'aeroporto. Allora, per quanto riguarda l'inceneritore, è, diciamo, un commento rispetto a una notizia che è di cronaca, ma solo parzialmente, perché non è stata riportata con particolare enfasi, cosa che ovviamente non ci stupisce, da parte dei giornali locali, ma che diciamo tendiamo a segnalare proprio perché riguarda in qualche modo da vicino le vicende delle quali ci occupiamo con più attenzione. Mi sto parlando del fatto che il giorno 8 maggio del 2018, ovviamente, è uscita una importante e buona per noi ordinanza del TAR del Lazio che sospende il giudizio anche sul ricorso del forum ambientalista contro il decreto ministeriale dell'articolo 35 dello Sblocca Italia. Ricorderete forse la vicenda legata appunto a questo decreto ministeriale, o meglio decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che come sappiamo insieme ai decreti ministeriali non hanno diciamo la forza di legge, ma hanno poi diciamo una durata e una applicazione in qualche modo temporanea, proprio perché emessi con la forza d'urgenza da parte del governo e dell'esecutivo, saltando quindi invece la discussione più ampia, più lunga e più approfondita che dovrebbe passare invece dal, appunto dal Parlamento e dagli organi legislativi. Però insomma Renzi in quella fase, eravamo nel 2014, alla fine del 2014, per poi diventare attuativo ed essere come sempre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale forse addirittura nel 2015 già iniziato, o comunque insomma tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 parte questo decreto appunto emesso di fatto dallo stesso Matteo Renzi, che viene definito Sblocca Italia proprio perché andava a in qualche modo rompere lacci e lacciuoli riferiti soprattutto alle infrastrutture e le grandi opere, ovviamente riguardante l'intero territorio nazionale. Articolo, o meglio, decreto contro il quale si sollevò allora e continua a sollevarsi tutta l'Italia, che di fronte appunto all'imposizione di grandi opere di piccolo, medio o addirittura grande portata, si è sempre organizzata dal basso nel tentativo di contrastarle e, laddove è possibile, come nel caso dell'inceneritore, anche di praticare e spingere delle alternative. Si sollevò allora in molti modi, dalle piazze ai presidi, alle discussioni, alle assemblee, fino anche chiaramente all'utilizzo diciamo delle corti e dei tribunali dell'amministrazione per dare battaglia contro appunto questi decreti. È proprio il caso di questa sentenza del TAR del Lazio, che infatti va proprio in qualche modo a bocciare la compatibilità di questo Sblocca Italia con le decisioni della Corte di Giustizia Europea. Infatti, proprio perché ci sono dei problemi di compatibilità con delle direttive europee, anche sotto, come possiamo dire, sotto il profilo del mancato rispetto di alcuni principi di tutela ambientale, viene appunto il TAR del Lazio si è espresso così negativamente. Quindi sostanzialmente questo decreto Sblocca Italia risulta in fondo inapplicabile, e essendo che proprio grazie a questo decreto Sblocca Italia nella fase politico-amministrativa del 2014-2015 era stato reso possibile la pianificazione di diversi inceneritori nel territorio italiano, riguardava in qualche modo anche da vicino la nostra vicenda, perché rendeva rendeva più facile il terreno autorizzativo rispetto all'inceneritore di Firenze. Quindi in qualche modo questa sentenza del TAR del Lazio viene accolta da parte dei movimenti, prime tra tutte con attenzione e vivacità a segnalarlo sono state le mamme non inceneritore. Lo accogliamo chiaramente tutti, anche noi, come un'altra tegola che in qualche modo cade sopra la cultura inceneritorista d'Italia e anche dei nostri territori. Chiaramente legandola, come abbiamo già più volte fatto, non tanto per una, diciamo, attitudine alla gufata che qualcuno potrebbe anche sospettare, e neanche insomma per presunzione, cioè non per la presunzione di essere quelli che vedono le cose in modo più lungo perché le vedono in modo più critico, ma proprio per essere attenti a quello che succede, la dobbiamo necessariamente intrecciare con il momento di forte euforia e di spinta con cui la controparte dei pro aeroporto, dei pro pista, che poi in qualche modo sono anche una alleanza pro crescita, intendendo con crescita la crescita del PIL e della sola economia in senso appunto mercantile, si sono organizzati e che chiaramente trovano fortissimo spazio anche all'interno dei media locali e della stampa locale. Non possiamo non parlarne, come chi ci ha ascoltato nella settimana precedente o è attento a queste vicende, sa che lunedì 7 di maggio, alle più o meno intorno alle 19, questo neonato comitato per il sì al nuovo aeroporto di Firenze si è riunito nella kermesse chiamata dentro il palaffare di Firenze e è andato in qualche modo in scena questo scontro nel centro di Firenze tra l'opzione dell'espansione aeroportuale capeggiata per l'appunto da Confindustria, da Confcommercio, dalla Camera di Commercio, quindi da queste grandi associazioni di categoria, più grandi marchi fiorentini che si sono schierati in questi mesi e in questi anni, capofila, potremmo prendere Ferragamo, di cui abbiamo abbondantemente parlato in puntate precedenti, di cui ricordiamo e ricorderemo sempre. Nei secoli dei secoli, la figura di Ferruccio Ferragamo che imbraccia il microfono, il megafono, scusate, di fronte all'aeroporto di Peretola nel dicembre del 2017, sempre per spingere per la costruzione del nuovo aeroporto. Insomma, quel insieme di forze che a fine anno scorso ancora erano un po' scomposte, erano arrivate con uno striscione davanti all'aeroporto di Peretola, si sono formalizzate in un comitato per il sì che appunto il 7 di maggio, lunedì, si è dato questo appuntamento. Appuntamento che è servito ovviamente quasi esclusivamente a fare uno spot che fosse poi rimpallato dai social media fino ai media locali. C'erano diverse centinaia di persone, indubbiamente, lo possiamo dire in modo concreto e a ragion veduta, proprio perché eravamo presenti e con gli occhi e con il corpo e con la mente eravamo presenti dall'altra parte della strada, dove come movimenti e comitati e associazioni, diciamo come cittadini autorganizzati, avevamo convocato questa contestazione a questa kermesse padronale. Ci sembrava un appuntamento che non potevamo non sottolineare, con qualche pentola e qualche coperchio battente che stesse lì a scandire il fatto che dentro il palaffari, giustamente si parla di aeroporto perché rappresenta un enorme affare, dall'altra parte le pentole e i coperchi appartengono al popolo e è inutile che il comitato per il sì faccia finta di parlare a nome delle vaste comunità, quando in realtà rappresenta i suoi interessi e gli interessi di un provincialismo bottegaio, di una sorta di neo-suprematismo bottegaio alla fiorentina che sta emergendo in maniera molto evidente e molto forte dentro questo processo di spinta e di pressing per la costruzione della nuova pista. Chiaramente è difficile, sarebbe forse lungo e anche ridondante stare a leggere tutti i titoli di giornale e gli articoli. Cercherò di fare una sorta di riassunto delle vicende appunto che restano aperte, benché insomma a qualche titolo va in qualche modo letto per vedere diciamo la marchetta continua che la stampa e la cronaca locale concedono a queste vicende e ai loro proponenti, ai loro sostenitori. E dal Corriere Fiorentino dell'8 maggio al Palaffari 700 per il sì a Peretola, la nuova pista ora o mai più. Sul palco gli esperti anti-fake news, oggi più rischi, virgolettato. Ovviamente il riferimento è al fatto che oggi più rischi è riferito al fatto che hanno scoperto improvvisamente che la situazione delle zone sorvolate, soprattutto Quaracchi, Brozzi, Peretola, è abbastanza pesante, sia da un punto di vista del rischio sorvoli, che è oggettivamente sempre un rischio, sia dal punto di vista più continuo, più impattante, più visibile del rumore. Quindi l'hanno scoperto oggi, proprio perché non potevano fare a meno di tirar fuori anche questo argomento, che sta diventando in qualche modo un elemento strategico della narrazione dei fatti. E chiaramente, insomma, viene subito citato in questo inizio in questo titolo di articolo. Poi c'è dall'altra parte della pagina: ho firmato l'appello, lo sviluppo non è di destra o di sinistra, io invece non lo farò, è una resa dei conti tutta interna al PD. Queste sono le dichiarazioni del sindaco di Arezzo, quello che ha firmato, del sindaco di Pistoia, quello che non ha firmato. Firmato cosa? Esattamente, firmato o non firmato un appello lettera che Nardella ha indirizzato a diversi sindaci della Toscana e rispetto al quale ha chiesto adesioni e firme. Chiaramente l'appello di Nardella si sostanzia di un ragionamento abbastanza semplice e banale, che è: l'aeroporto di Firenze serve a tutto l'indotto dell'economia toscana, quindi a spingere per questo aeroporto non saranno solo i suprematisti Bottegai fiorentini, ma anche altri territori, altre cordate di affari che in qualche modo rispetto a Firenze sono legate. E ovviamente in questo non possiamo nasconderci, come mette in evidenza anche l'intervento del sindaco di Pistoia, l'aspetto interno alla tenuta del PD, inteso come PD renziano. Il sindaco di Pistoia non ha firmato dicendo che è un regolamento tutto interno al PD. A noi non sembra che la vicenda di un aeroporto intercontinentale dentro un'area metropolitana popolata da 1 milione di persone sia solo un problema interno al PD. Però sicuramente questa frase del sindaco di Pistoia mette in evidenza un aspetto sicuramente esistente, che lo sviluppo non è né di destra né di sinistra. In qualche modo è una frase complicata che meriterebbe molta attenzione, molta vicissitudine, molte vicissitudini e molte discussioni, soprattutto per, diciamo, in qualche modo impallinare il più possibile il processo lungo ma inesorabile con cui lo sviluppismo ha catturato quasi completamente la sinistra, una sinistra che poi oggi si parla ormai da decenni di crisi delle ideologie e di difficoltà nel definire il campo della destra e della sinistra. In effetti, se per sinistra si intende il PD, che viene insomma, dalla tradizione dei DS, no? Quindi dei Democratici di Sinistra, se per sinistra si intende il PD. In effetti, l'ideologia sviluppista e della crescita infinita è sicuramente una dei capisaldi della loro filosofia neoliberista. Quindi, indiscutibilmente, il sindaco di Arezzo ha colto nel segno con questa dichiarazione. Se con sinistra, rimanendo un po' legati a quelle che erano le distinzioni nel Parlamento. Nel primo Parlamento della Rivoluzione Francese intendiamo delle forze che si ispirano ancora a una visione egualitaria della società in cui l'eguaglianza sociale sia un principio irrinunciabile anche rispetto alla possibilità dello sviluppo della felicità e della libertà dei propri cittadini e dei propri abitanti. Beh, qui allora la questione si complica e direi che oggi all'interno della sinistra, diciamo vera sinistra, mettiamola così, la discussione sulla messa in discussione, la messa in crisi dell'ideologia sviluppista è sicuramente una delle discussioni più importanti e prioritarie che in qualche modo stanno nascendo. Quindi, insomma, questo è stato per allargare un po' il discorso, però certamente questo tentativo di Nardella purtroppo non dice niente di particolarmente nuovo rispetto al personaggio, però dà un po' una idea di quella che è la sua idea di democrazia, no? Cioè sulle vicende fiorentine decide da solo. Però, se proprio qualcun altro deve dire la propria opinione, non saranno certo i sindaci dei comuni coinvolti dal futuro progetto di una grande opera, in questo caso l'aeroporto, ma si va a chiamare il sindaco di Arezzo o il sindaco di Siena. Quindi, se gli aerei di domani passano sopra Prato, ma Prato viene estromesso dall'osservatorio ambientale, mentre Nardella rivolge un appello al sindaco di Arezzo, al sindaco di Siena, solo per dire quelli in qualche modo delle città toscane più in vista, perché questo appello che ancora sta circolando, e Nardella lo sta portando in qua e in là, è ancora aperto e l'hanno firmato alcuni sindaci più o meno in vista, ma c'è quindi all'interno anche l'aspetto che, come ho detto, ha citato il sindaco di Pistoia, cioè di una verifica della tenuta del PD renziano con un Nardella che in qualche modo fa da frontman all'interno del territorio toscano. Ci sono molti altri articoli, perlomeno un articolo, solo questo, del Corriere Fiorentino, sempre dell'8 maggio, che parla anche, diciamo, della nostra piazza. Una cinquantina per il no, con l'appello ad Antonioni. Lo diciamo proprio per la cronaca, segnalando chi volesse e ancora non l'ha vista, come abitanti della Piana Fiorentina abbiamo scritto, concepito una lettera aperta indirizzata ad Antonioni, capitano e unico 10 della Fiorentina, che in qualche modo era stato utilizzato come... diciamo come tentativo propagandistico di coinvolgere la storia della squadra e di fare presa sui tifosi. Quindi era stata annunciata la presenza di Antonioni durante la kermesse del 7 maggio al Palaffari. Antonioni non è andato, ha detto di non essere potuto andare. Noi non sappiamo in nessun modo se la lettera aperta che abbiamo fatto circolare dal lunedì mattina sui social e ha girato, direi, in modo significativo, avendo migliaia di visualizzazioni, se è arrivata anche a lui, se in qualche modo gli ha fatto suonare un campanello d'allarme, ma insomma in qualche modo Antonioni non è andato alla kermesse e vediamo che succederà. È comunque un tentativo di non fargli utilizzare più di così ai padroni della Piana e dei cieli fiorentini anche il capitale simbolico che il capitano e unico 10 Giancarlo Antonioni rappresenta per la città. La vicenda sta ovviamente andando avanti. L'unico altro diciamo appunto che faccio, per non dilungarmi troppo, visto che comunque ci dovremmo tornare sempre e comunque, è riferito alla questione della conferenza dei servizi richiesta da Toscana Aeroporti e degli espropri dei terreni. Vicenda non facile da decifrare anche da un punto di vista proprio burocratico amministrativo, perché in testa a tutte le possibilità di esproprio ci sarebbe la conformità urbanistica. Conformità urbanistica che ad oggi Toscana Aeroporti non ha e non può ottenere dalla Regione Toscana, perché ricordiamo che nel 2016 un ricorso al TAR fatto dai comitati dei cittadini ha avuto ragione. Ricorso fatto sul fatto che la Regione Toscana aveva autorizzato una pista di 2.400 metri, laddove invece il piano di indirizzo territoriale ne prevedeva al massimo una di 2.000, che doveva essere compatibile con il previsto parco agricolo della Piana. Per questa enorme, grossissima incompatibilità, il Tribunale Amministrativo Regionale dette ragione nel 2016 ai comitati. Quindi ad oggi il piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana non prevede la pista che invece Toscana Aeroporti dovrebbe andare a realizzare e per la quale si sono ritrovati anche nella kermesse del 7 maggio. Quindi, nonostante tutto il pressing anche mediatico che stanno facendo, ad oggi questa conformità urbanistica non c'è e per adesso gli espropri non possono essere eseguiti. Sta di fatto che tra le minacce di Toscana Aeroporti che si sono susseguite durante tutta la settimana c'è anche quella di aver in qualche modo fatto circolare l'idea, più che addirittura la voce, che si possa procedere agli espropri e quindi in qualche modo andare nella direzione della cantierizzazione pro costruzione anche senza la conformità urbanistica della regione, ma che possa essere un altro ente, evidentemente a loro scelta, e un ente evidentemente meglio disposto a firmare, ad assumersi responsabilità in materia, che possa permettere appunto di mettersi in regola. Poi, come abbiamo visto anche per lo Sblocca Italia, a volte la messa in regola è solo temporanea. Anche la vicenda dell'inceneritore, di cui abbiamo poc'anzi parlato, è di questo tenore. Nel 2014-15 si diceva, attraverso il decreto Sblocca Italia, che si sarebbe andato a costruire 20 e più inceneritori in tutta Italia. Pochi anni dopo, un tribunale amministrativo regionale dà torto al decreto sblocca Italia, lo mette in discussione perché è evidentemente incompatibile con altre direttive europee e si torna ancora indietro. Quindi in questo gioco, in questa battaglia che a volte assomiglia anche a una partita a scacchi, fatta di mosse e contromosse, restiamo sempre vigili, restiamo sempre molto attenti. Sull'aeroporto e sull'inceneritore andiamo con questo a chiudere e passiamo un'ultimissima notizia che però mi sembra davvero importante darvi, in qualche modo un articolo che parla di lavoro, di diritto del lavoro, e comincia così: turni di lavoro massacranti, reperibilità anche su 24 ore, niente malattie né ferie pagate, e poi ogni mese le stesse richieste, ridateci indietro parte dello stipendio. Chi è che parla? Forse qualcuno di voi potrebbe dire io, perché in molti settori purtroppo avvengono abusi di ogni sorta, ma in questo caso e in modo così eclatante sono i facchini, di origine, in questo caso tutti di origine pakistana, che lavorano a reggello, diciamo in appalto e subappalto, in una catena di appalti e subappalti per la catena di abiti Zara. C'è stato appunto il fatto della notizia, viene fuori da un articolo di Repubblica dell'8 maggio che segue ad una trattativa sindacale tra il SICOBAS e la catena degli appalti, appunto Zara, DHL e soprattutto la più incriminata, la Moda Italia Malang o Malang Logistic, Moda Italia Malang Logistic o Malang, ripeto, che era quella che poi assumeva direttamente i lavoratori pakistani che facevano da corrieri per i negozi di Zara in Toscana e anche a Firenze. C'è stato prima il 3 di maggio il presidio di protesta in centro a Firenze, appunto dove con lo striscione, con un presidio, con alcuni lavoratori si è in qualche modo sanzionato, indicato il negozio di Zara come capofila di questa catena di appalti, e poi la trattativa sindacale nella quale ovviamente tutti cascano dal pero, cioè Zara non sa niente di quello che accade, DHL che aveva l'appalto per conto di Zara e che poi subappaltava a questo Moda Italia Malang o Malang a sua volta non sapeva niente. Insomma, come sempre, quando a prenderlo in tasca sono gli ultimi, e ultimi probabilmente due volte, datemi questa concessione dell'ultimo due volte, perché si parla di lavoratori stranieri e quindi due volte ricattabili proprio per quello che è successo in Italia sul controllo degli stranieri come controllo anche dei flussi migratori dalla legge Bossi Fini, prima ancora Turco Napolitano fatta dal centro-sinistra, Bossi Fini poi, e ultimamente con il delirio totale che si è sposato con quello securitario ad opera del ministro Minniti. Quindi quando a parlare e a mettere in discussione l'ordine dell'esistente sono gli ultimi e gli ultimi due volte, tutti cadono dal pero, però insomma la trattativa sembra essere andata a buon fine, quantomeno ha messo il dito nella piaga, una piaga che chiaramente non è solo fiorentina, ma è un modello generalizzato e che ha visto il SICOBAS, questo sindacato molto combattivo che pratica una forma di neo-operaismo molto molto incisiva e che proprio con e attraverso i lavoratori della logistica ha portato avanti delle vertenze, alcune tra queste anche vincenti e molto incisive. Consiglio così, tanto en passant, la visione del docufilm documentario Dashing the Fear, che ne descrive attraverso le loro voci in modo molto interessante alcune vicende, e comunque si è conclusa positivamente sia su Firenze, anche perché ha avuto certamente altri presidi, altri momenti di visibilità in Italia, primo tra tutti quello di Bologna, che è stato un po' il centro della vicenda. Quindi un saluto a pugno chiuso per tutti quelli che stanno lottando, che siano italiani o stranieri, che siano in lotta sui territori per la difesa dell'ambiente o che lo siano per i diritti del lavoro, nella convinzione sempre più forte che crisi ecologica e disastro sociale siano intimamente legati e che le nostre lotte debbano puntare a una nuova società e a una vita possibile in un pianeta che ha risorse limitate e non infinite. Ciao a tutti, alla prossima settimana.